Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. È venerdì e come sempre in questa giornata abbiamo con noi gli amici dell'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. In questo caso saluto Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, saluto agli ascoltatori. Ecco, tra l'altro questo è un venerdì particolare perché siamo al 30 giugno e quindi siamo alla fine del mese. Da domani, 1° luglio, cominciano che cosa? Lo sanno soprattutto le donne, ma ormai anche tanti maschietti. Domani cominciano i saldi estivi, cominciano in tutta la nostra regione e proseguiranno ininterrottamente fino al 31 agosto. Quindi da domani, diciamo che anche che alcune città cominceranno da questa sera qualche negozio aperto fino a ora tarda. Comunque in ogni caso ufficialmente i saldi estivi partono domani e come al solito sarà un banco di prova molto importante per il sistema commerciale delle nostre città in confronto soprattutto con il sistema commerciale della grande distribuzione, questa sfida che continua ormai da tanto tempo e niente, sarà soprattutto un momento per le persone, per i consumatori, per cercare di fare qualche affare, soprattutto puntando su alcuni capi appunto per la spiaggia e sulle scarpe che, come per ogni saldo, sia estivo che invernale, risultano quasi sempre il capo più ambito, perché anche un capo che può essere una merce che può essere abbastanza costosa e quindi conviene sempre acquistarla nei momenti di saldi. Certo, e come ogni anno voi che cosa avete organizzato come Adico? Guarda Francesco, noi come Adico ci muoviamo in due direzioni. Allora, da qualche giorno abbiamo lanciato una campagna antifurbetti, chiamiamola così, che è arrivata alla sua 7ª edizione, che si chiama Fotografa il tuo acquisto. Lo scopo è semplice, chiediamo a potenziali acquirenti di fotografare la merce che si vuole comprare in saldo prima dello sconto, prima dell'inizio degli sconti codificati per legge, e poi di andarlo a rifotografare durante gli sconti per capire insomma che il prezzo sia veramente diminuito, che insomma ci si trovi di fronte a dei saldi reali. Nel caso in cui ciò non accadesse, noi invitiamo le persone a inviarci le foto al nostro sito www.associazionedifesaconsumatori.it e appunto per mettere in evidenza e per denunciare questo tipo di comportamento. Un'altra cosa che noi facciamo ogni anno ormai è quella di andare a trovare qualche negoziante prima dei saldi, solitamente li dividiamo tra negozi di abbigliamento e negozi di calzature, con una certa preminenza dei negozi di abbigliamento, e niente, andiamo a comprare della merce e chiediamo lo sconto alla cassa, a meno che non ci venga direttamente proposto dal cassiere, e come sempre abbiamo rilevato insomma che i saldi cominciano ben prima della data stabilita. Nel nostro mini sondaggio risulta addirittura che su 14 negozi visitati 10 ci hanno proposto il saldo o hanno accolto la nostra richiesta di sconto direttamente alla cassa. Stiamo parlando appunto del 70% dei negozi che noi abbiamo visitato, senza contare Francesco tutti i messaggini che i negozi ormai da tempo, come consuetudine, inviano ai clienti più affezionati, messaggini con i quali appunto si invitano i clienti stessi a presentarsi al negozio prima dei saldi, perché tanto lo sconto avverrà in ogni caso. Ecco, è un modo un po' per aggirare il regolamento, che chiaramente apre molte questioni sul fatto, sulla validità appunto dei saldi estivi invernali, se ne parla da molto. Vedremo cosa succederà con il tempo. Sì, se cambieranno queste regole. Intanto però i saldi ci sono e come sempre bisogna stare attenti, perché certe volte i prezzi fanno gola e va a finire che ci portiamo a casa cose che non ci servono anche. Sì, tra l'altro è un periodo, sono delle settimane appunto di shopping a volte frenetico, ripeto, è molto più frenetico lo shopping per i saldi invernali. Comunque sono giornate in cui bisogna anche un po' stare attenti. Noi proponiamo, come tanti altri, i consueti vademecum, che possono sembrare ripetitivi, però in realtà ci accorgiamo che tornano utilissimi, vedendo poi il comportamento di molte persone che si scatenano durante il periodo dei saldi. Diciamo, Francesco, che le principali cose alle quali bisogna stare accorti sono soprattutto quelle, tanto di non farsi prendere dalla frenesia di voler comprare a tutti i costi, cosa che succede sempre di fronte a degli sconti. Poi, importantissimo, prima di prendere un prodotto, andare a vedere anche se magari viene proposto in altri negozi lo stesso prodotto a costo minore. Poi, come dicevamo prima, attenzione ai furbetti. Noi consigliamo appunto di fotografare addirittura la merce prima dell'inizio degli sconti per confrontare che il cartellino, nel cartellino vecchio, il prezzo venga ribassato il prezzo rispetto al cartellino vecchio. Poi è importante verificare chiaramente le taglie riportate in etichetta ed eventuali difetti, e sappiamo che la merce si può cambiare, però ricordiamoci solo appunto di fronte ad eventuali difetti che non erano stati evidenziati al momento dell'acquisto. E chiaramente, se è un capo di abbigliamento, ciò che succede praticamente con tutto il periodo dei saldi, diciamo che è concentrato soprattutto sull'abbigliamento e sulle calzature, è sempre meglio chiaramente provare prima il capo. Ricordare che prezzi esposti vincolano il venditore ad applicare quegli sconti alla cassa. Il negoziante, convenzionato con una carta di credito, è tenuto ad accettarla sempre anche in periodi di saldi. Questo è molto importante, perché tanti ci segnalano che alcuni negozianti non lo fanno, e bisogna ovviamente sempre controllare che il prodotto esposto in vetrina sia quello offerto in negozio, sia uguale a quello che offerto in negozio. E un'altra cosa importante, lo diciamo sempre ma ci teniamo a dirlo, diffidare un po' degli sconti esagerati, diciamo degli sconti superiori al 60%, possiamo dire anche di quelli superiori al 70%, perché ormai comunque i livelli degli sconti sono molto elevati. Quando lo sconto, il saldo è davvero eccessivo, siamo attenti per cercare di capire se veramente si tratti di un grande affare o meno. Esatto, va bene, soliti e importanti consigli che l'Adico dà. Ricordo che c'è anche il sito www.associazionedifesaconsumatori.it, dove si trova anche qui un interessante articolo dedicato ai saldi e tante altre notizie. Ci risentiamo tra qualche giorno, grazie a Gianluca Codognato. Grazie Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.